questa meditazione pensavo di tornare a meditare sulla festa degli angeli custodi e in particolare sulla fondazione dell'Opus Dei, che quel giorno è avvenuta, e quindi noi ricordiamo come momento di ringraziamento per questa irruzione della novità di Dio nella storia della Chiesa in quel giorno del 2 ottobre del 1928, nella festa degli angeli custodi. È stato il giorno scelto da Dio per dare una luce nell'anima, nel cuore del giovane Don José María, dopo tanti anni di lavorio nella sua anima, dopo tanti anni di ispirazioni che addirittura, ecco, lo avevano anche portato poi alla vocazione al sacerdozio fin da quando era ragazzo. Il Signore entrava con forza nella sua anima e gli chiedeva qualcosa di grande, che fosse amore, no? Lui diceva così più avanti, e si rendeva conto allo stesso tempo che non era solo esclusivamente il sacerdozio, che è pure una grande vocazione, il sacerdozio diocesano, no? nella sua diocesi di appartenenza, che poi passò a quella di Saragozza per motivi di studio, poi a quella di Madrid sempre per motivi di studio. E ecco, e lì a Madrid, diceva, è stata la mia Damasco, cioè ha visto questa illuminazione su tutta l'opera, diceva, no? Quel giorno dei Santi Angeli Custodi del 1928, tanto che si ricordava con tanto affetto le campane che suonavano a volo, no? Della chiesa di Santa Maria degli Angeli, poco distante dal luogo dove stava facendo quei giorni di esercizi spirituali, no? A Madrid. Ecco, dopo la messa, nel riordinare gli appunti presi proprio su, nel rileggere, insomma, le grazie ricevute dal Signore, le illuminazioni ricevute negli anni precedenti, e ricevete l'illuminazione su tutta l'opera. Allora, ecco, io mi chiedevo ancora una volta, il 2 ottobre di quest'anno, la relazione che c'è tra questa illuminazione su l'opera che il Signore gli chiedeva, cioè questa mobilitazione di cristiani normali, comuni, che avessero la consapevolezza, che arrivassero alla consapevolezza che Dio non solo è presente, esiste, non solo si è incarnato e quindi ha fondato la Chiesa, e il Signore ci vuole nella Chiesa, ma ci vuole a seguirlo da vicino, pur nella normalità dell'esistenza, pur nella normalità della quotidianità di persone totalmente inserite così in mezzo al mondo, nella vita di lavoro, di famiglia, sociale, e tutte queste realtà umane non solo non ostacolano la vita contemplativa, e quindi in qualche modo si unisce la vita contemplativa a quella attiva nell'unità della vita del cristiano. Ecco, questo è diciamo, detto in poche parole, qualcosa che noi conosciamo anche per vocazione, cerchiamo di vivere, anche di passare ad altri, di diffondere, no? questa presa di coscienza della chiamata a seguire Cristo da vicino nel bel mezzo delle attività della vita quotidiana. Ecco, che relazione con gli angeli, no? Con gli angeli che sono i messaggeri di Dio, coloro che ecco, sono questi esseri che noi non vediamo a meno che non appaiano, e a volte quando appaiono non si fanno riconoscere subito, no? Pensate alla storia di San Raffaele Arcangelo, no? Narrata nel libro di Tobia, quando questo angelo del Signore si presenta, ecco, nella vita di questa famiglia, di quel ragazzo, e si offre di accompagnarlo per custodirlo dai pericoli del viaggio e anche per custodirlo da una certa azione del demonio che si intravede in questa storia, e anche per aiutare quella fanciulla Sara, che aveva avuto tutti quei mariti morti subito, no? Invece a sposarsi e ad andare e a custodire la vita, no? Di questo giovane Tobia. E quindi fare in modo che questa storia d'amore arrivasse al suo compimento senza l'interruzione così improvvisa della morte provocata da colui che è il nemico del genere umano e l'omicidio, l'omicida fin dal principio, no? Quindi gli angeli sono, secondo la fede che noi abbiamo, sono della stessa, sono questi esseri spirituali sì, di cui alcuni si sono ribellati a Dio, invece quelli a cui, che noi chiamiamo angeli custodi, gli arcangeli, sono fedeli a Dio e ci aiutano a seguire i cammini di Dio, no? Per cui io penso che questa coincidenza, no, che sia avvenuta nella festa degli angeli, l'illuminazione su tutta l'opera nella vita di preghiera di San José María, sia avvenuta sia perché gli angeli gli hanno portato questo annuncio del Signore, come accade spesso nella Bibbia, sono gli angeli che portano l'annuncio della vocazione, no? Quindi pensate a Maria, la madre di Dio, no? E la madre nostra che viene avvertita della vocazione dall'arcangelo Gabriele. La stessa cosa Gabriele l'ha fatta con Zaccaria e Sara, che spiegando loro che aveva portato davanti al Signore con le loro preghiere, no? Ecco, un'altra delle cose che fanno gli angeli è questo presentare le preghiere, secondo la Bibbia, no? Dei fedeli a Dio. E poi però Dio li manda perché per darci un suo annuncio, per svelarci la vocazione, e quindi questo potrebbe essere un motivo. Poi la festa degli angeli custodi allora era, anche adesso è distinta dalla festa degli arcangeli. Allora nella liturgia di quel tempo San Michele, San Raffaele e San Gabriele avevano proprio anche tre momenti distinti, invece adesso li festeggiamo tutti insieme qualche giorno prima, il 29 di settembre. Ma la festa degli angeli custodi invece è, come dire, non so, la festa più popolare degli angeli, nel senso che sono tutti quanti, no? Non sono i grandi arcangeli, ma gli angeli della gente comune, possiamo dire così, no? Le grandi vocazioni vengono svelate da un arcangelo, da un principe del cielo, e invece la vocazione comune alla santità di tutti gli uomini sono i piccoli angeli custodi, che insomma, che sono un esercito e che vanno dalle singole persone e le prendono per mano e gli dicono: guarda che anche tu nella tua piccolezza, insomma, anche a te il Signore vuole bene, ti sta molto vicino, se no anche tu puoi vivere la pienezza del Vangelo nella tua normalità, nella tua piccolezza, no? E infatti, vedete, nella festa degli angeli custodi, il Vangelo che noi leggiamo è il Vangelo secondo Matteo, in cui Gesù parla degli angeli, proprio dei bambini, no? Del farsi piccoli come bambini, no? Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Chiedevano i discepoli, perché sono sempre ossessionati da questa rivalità, chi è il più grande, no? Da questa classifica, no? E tra di loro, ecco, cercano sempre di capire o di voler essere anche loro i più grandi. Allora chiamò a sé un bambino, Gesù, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè, loro si preoccupavano di chi era il più in gamba, il migliore, quello che, insomma, in questo regno dei cieli misterioso avrebbe avuto il posto più grande. E invece Gesù chiama a sé un bambino che, come sappiamo, allora ma forse anche adesso, no? Ma però allora in modo particolare non era considerato nulla, e gli dice: dovete diventare come loro, e perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino costui è il più grande nel regno dei cieli. Quindi questo è anche un altro modo di Gesù di dire: la chiamata di tutti è alla santità, come il San José Maria diceva e come il Vaticano II si esprimeva, no? La chiamata universale alla santità, che detto in altre parole appunto significa che tutti siamo creati da Dio, amati da Dio, scelti da Dio per essere figli di Dio, per essere per essere come questo bambino, e quindi per essere il più grande nel regno dei cieli, se vogliamo usare questa espressione, ma non nel senso in cui la chiedevano gli apostoli, no? E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me, addirittura, vedete un po', cioè, quindi vedete, altre volte Gesù dice: voi lo state facendo a me quando fate del bene appunto a chi ha fame, ha sete, è nudo, è carcerato, è malato, è povero. Adesso dice: lo fate a me quando accogliete un solo bambino, cioè io sono loro, no? Cioè, si identifica Gesù con i più piccoli, con i più poveri, con i più anche trascurati, i più scartati di quella società, no? Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. E quindi ecco, questo Vangelo, proprio per la citazione degli angeli, viene letto nella festa dei Santi Angeli Custodi, perché Gesù cita gli angeli dei bambini, quindi ecco, di persone che dal punto di vista umano non significano nulla, allora soprattutto anche, possiamo dire in certo senso anche adesso, purtroppo anche ci sono molte, molte cose che si fanno contro i bambini, no? Il Papa spesso denuncia tutte questi soprusi, no? E accade adesso, pensate, durante le guerre, non solo quelli che non vengono neanche fatti nascere, no? E che sono tanti, ma anche quelli che poi vanno di mezzo, oggi in modo molto drammatico, ecco, nei conflitti e nelle migrazioni, nelle situazioni di povertà. Allora, da una parte gli angeli portano a San José Maria questo messaggio, che poi dopo si occuperanno anche loro, no? Di diffondere, no? Vi ricordate che nel libro Cammino San José Maria spesso, quando parla dell'apostolato poi personale di amicizia e di confidenza, questa confidenza con gli amici che porta a svelare orizzonti insospettati di zelo, no? Li chiama così, cioè ecco, a svelare che questa vicinanza di Dio nella nostra vita di ogni giorno, questa possibilità di amare Dio, di scoprire l'amore di Dio e di restituire amore attraverso il lavoro ben fatto, attraverso la carità fine, ecco, nel rapporto con le persone che incontriamo a motivo delle situazioni normali della vita di una persona qualunque. Ecco, dice, ecco, pensa che l'angelo custode di quella persona, in qualche modo, mentre noi stiamo accanto, ed è la stessa cosa che succede a noi, no? Il nostro angelo custode ci aiuta a comprendere, ci porta un messaggio anche attraverso coloro che ci parlano di Dio, ci aiuta a capire, no? E ad accogliere questi continui messaggi che il Signore ci manda. Per cui, ecco, a me piace pensare che i messaggi degli angeli, pensate a noi abbiamo effettivamente nelle storie della Bibbia, in modo particolare queste storie dei grandi arcangeli, appunto citavamo la storia del libro di Tobia, e poi le storie, ecco, gli annunci dell'angelo Gabriele o dell'angelo che è apparso in sogno a Giuseppe, no? Tante volte. Quindi no, sono storie legate all'amore di Dio. E ecco, pensate alla storia di Raffaele con Tobia, cioè il suo intervento, l'intervento dell'angelo Raffaele è finalizzato a che si compia questo matrimonio e che possa, ecco, andare bene, no? E con Maria possiamo dire lo stesso, che in questo matrimonio che lei ha già progettato con Giuseppe addirittura ci sia questa aggiunta, no? Straordinaria di questo sogno di Dio che si realizza, del diventare uomo Dio proprio nel seno di quella fanciulla che si chiama Maria, e così via, no? Ecco, tutte storie d'amore, storie di salvezza, storie dell'intervento positivo di Dio nella nostra vita, che è la finalità di queste azioni degli angeli. Forse possiamo anche dare questo terzo significato, cioè che il Signore nel ricordare proprio nel seno della Chiesa, in quel momento attraverso quel sacerdote che lui stava scegliendo come appunto prima persona di questa famiglia nella Chiesa, che il Signore volesse anche in qualche modo suggerire a noi, che a tutti i cristiani, che ciascuno di noi deve essere annunciatore, no? Delle cose di Dio. Quindi con l'aiuto degli angeli dobbiamo essere un po' anche noi come angeli, cioè nel senso etimologico del termine, come persone che annunciano, no? Che portano il messaggio di Dio in giro per il mondo. E in effetti questo messaggio di Dio spesso si caratterizza per l'aspetto della novità, no? In effetti mi ha colpito ancora una volta nel leggere la trascrizione di una meditazione che San José Maria fece in uno di questi anniversari, che per lui e anche per noi sono giorni di ringraziamento a Dio, no? Che lui in questa meditazione, ricordando un po' i primi tempi, i tempi originali, diceva, ecco sì, cioè si immaginava un dialogo, no, dei suoi figli spirituali con lui. Padre, ma veramente l'opera cominciò il 2 ottobre del 1928? Sì, figlio mio, cominciò il giorno 2 ottobre del 1928. A questo punto mi viene in mente invece quel dialogo a cui assistevo io da ragazzo, proprio in un incontro con lui, con un gruppo di studenti italiani, in cui effettivamente un giovanissimo allora, forse non aveva ancora 14 anni, e un giovanissimo liceale e gli chiese improvvisamente in questo incontro: padre, ma come le è venuto in mente di fondare l'Opus Dei? E allora tutti si misero a ridere per questa domanda, però poi quello che noi allora chiamavamo il padre, ecco, Monsignore Scrivà, che era in mezzo a noi con la sua caratteristica simpatia, ci faceva ridere molto, però nel parlarci di cose divine e umane, anche lui si mise a ridere, poi lo guardò con grande affetto e gli disse: si vede che il Signore quel giorno ha pensato a te. È una risposta semplicissima e allo stesso tempo profondissima, infatti tutti siamo rimasti molto pensierosi, no? Molto colpiti da questa. Però questa è la logica da questa risposta. Ha pensato a te, cioè, insomma, questo messaggio di vicinanza, dell'amore di Dio a ciascuno di noi che si diffonde, ecco, ha pensato anche a te, poi a tantissime altre persone che voglio che attraverso di voi arrivare vicino alle persone e farmi tanti amici sulla terra, innescare un'altra volta, come tante volte il Signore fa continuamente nella Chiesa, quel processo attraverso il quale, per esempio, all'inizio, ecco, con i primi discepoli, uno chiamava il suo amico, poi l'altro, no? Come racconta il Vangelo di Giovanni. E lui e poi disse: sì, figlio mio, cominciò il 2 ottobre del 28, da quel momento non ho avuto più nessuna tranquillità, ho cominciato a lavorare, tra virgolette, no? A lavorare di malavoglia, resistevo a mettermi a fondare qualcosa. Dobbiamo pensare anche che era un sacerdote molto giovane, ordinato da poco più di due o tre anni, no? Ma cominciai a due anni e mezzo, mi sembra, ecco, che era la sua ordinazione. Ma cominciai a lavorare, a muovermi, a fare, a mettere le fondamenta. Mi misi a lavorare, non era facile. Ecco, le anime scappavano come scappano le anguille nell'acqua. Inoltre c'era l'incomprensione più brutale, perché quello che oggi ormai è dottrina corrente nel mondo, allora non lo era. E se qualcuno dice il contrario, non conosce la verità. E io avevo 26 anni, la grazia di Dio e il buon umore, e nient'altro. Ma così come noi uomini scriviamo con la penna, il Signore scrive con la gamba del tavolo, perché si veda che è Lui colui che scrive, e i fondatori santi che hanno questa percezione di essere strumento di Dio, come Madre Teresa dice: io sono la matita, e poi no, la busta, insomma, tutte queste immagini, cioè messaggi di Dio che arrivano, non sono così realtà che nascono in quella persona perché è come un'idea bella loro, no? Sono consapevoli che è Dio che parla. Questo è incredibile, questo è meraviglioso, no? Bisognava creare tutta la dottrina teologica, ascetica, tutta la dottrina giuridica. Mi trovai con una soluzione di continuità di secoli, non c'era nulla. L'opera intera, agli occhi umani, alla vista umana, era un'enormità, un grande errore, nella sua lingua diceva un disparaton, cioè una sciocchezza, no? Una follia, no? Per questo alcuni dicevano che io ero pazzo o che ero un eretico e tante altre cose. Era questo, è interessante che noi riflettiamo su questo aspetto, cioè Dio fa cose nuove e quando fa cose nuove chi le porta avanti, alcuni parlano dell'aspetto del profeta, no? Il profetismo che esiste anche nel cristianesimo, no? Secondo, ecco, una famosa intervista a Cardinal Ratzinger che disse certo anche nella Chiesa esiste, no? Questa dimensione e Dio fa cose nuove, no? Ecco, io faccio cose nuove, quello che dice nell'Apocalisse continua a essere vero. Nel leggere il libro che ha scritto Benedetto XVI, dal titolo Ultime conversazioni, queste interviste, si vede come lui non si aspettava l'elezione di questo Papa, non pensava che potesse essere lui, aveva un certo numero di persone in testa, ma non sapeva chi sarebbe stato, e però è molto contento anche di questa diversità da lui, no? Nella continuità, per esempio. Pensate a tutti gli altri grandi fondatori, ieri abbiamo festeggiato San Francesco, ma anche San Bruno che festeggiamo domani, cioè sono tante novità. Allora questa freschezza, no? Il Papa parla del Papa Francesco, dice, è contento di vedere questa freschezza nuova nella Chiesa, è molto contento di vedere anche questa diversità da lui nel carattere, no? Ma vabbè. E questa, ecco, il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium cita volentieri Giovanni Paolo II che dice che lo Spirito Santo ha una fantasia inesauribile. E allora questa novità, questa freschezza, cioè, che fu agli inizi dell'opera, che ha costituito, ecco, una caratteristica dell'opera in quel momento, e è una realtà che deve continuare, no? Continua novità, continua freschezza, continua, attraverso quale caratteristica? L'ascolto degli angeli che ci parlano, la voce di Dio che è sempre nuova, l'ascolto dello Spirito Santo, l'affidarci noi per portare avanti la nostra missione, questa missione che gli angeli hanno affidato a San José María il 2 ottobre del 1928, e l'affidarci a Santa Maria che per prima ha colto quella novità assoluta che fu e che è l'incarnazione del Figlio di Dio. Dio si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria. Questa è una novità continua, assoluta, che deve riempire di novità sempre con il soffio di fantasia perenne dello Spirito Santo, la nostra vita, la vita della Chiesa, la vita del mondo. Chiediamo alla Madonna, chiediamo ai Santi Angeli, no? che sia così, che ci continuino a parlare ogni giorno, che ci raccontino le cose nuove di Dio, i sogni di Dio, che noi cercheremo di lasciarci trasformare, di lasciarci convertire e di portarli alla nostra vita e alla vita degli altri, alla vita della Chiesa, alla vita del mondo.